svago tra quattro pareti troppo solide. Siamo alle solite, io e i miei pareri immersi in battaglie logiche. Una bottiglia nella destra, la bic in quel che resta, inizio a scrivere sonorità melodiche. Il mio testamento non per la fine ma per l'inizio. Pensieri si stanno succedendo, scrivere è un vizio. Forse lo toglierò, ma sorrido pensando che è molto più probabile che il rap è un comizio. Lo so, detto fatto, continuo con il mio intento. Sto più attento al suono esterno, va a finire che mi deconcentro. Ripenso alla pioggia, mi ricorda che è inverno. Se batte sulla finestra, ma pieno di frasi. Ritorno al quaderno e le basi ci sono quasi. Ritrovo il baricentro più fermo, dondolo con la sedia in stasi. Ho immagini di ciò che feci in casa, ho casi per tesi da psicanalisi, da far sanguinare i nasi. Cito parenti, amici, artisti e nemici. Lascio ricordi di Andrea con foto sbiadite in vecchie cornici. Creatore di incontri rapiti, discorsi anti-vietnamiti. Mentre scrivo i vocaboli si sciolgono coloriti. Il tempo è come lo spazio infinito, ti uccide ma sai tutto se lo hai capito. Mi perdo nel groove del mio racco, per il calore che dà o per il suono che fa. Mi ritrovo immerso dentro un locale fumoso con del buon jazz. Addosso un completo costoso, apro una lettera nel taschino per leggerla. Tolgo il fumo che c'è in giro, con mille sguardi inizio a sommergerla. La grafia mi è familiare, ho qualche ricordo parziale. Mentre leggo cambio espressione facciale. C'è scritto, lascio la passione a scorre. Mi ricordi a scippo, inizio a ricordare. Ordino un altro mojito, leggo incuriosito infine il mio flow a blade. E le mie paure e convinzioni le lascio ai miei. Il mio solo arrado, un solo perdi game. Poi dice, questo è tutto quello che vorrei. È un qualcosa di già visto, tipo un déjà vu. Ma abbassando lo sguardo noto qualcosa di più. Uno strano messaggio, un'impronta di lacrime. Poi grazie di tutto, ora inizio il viaggio. Ciao.